Noi aboliremo, come è scritto nel programma, le province inutili. Le province inutili sono, per esempio, quelle delle aree metropolitane. Non sono tutte? Stiamo lavorando perché l'anno prossimo non si voti, per esempio, nella provincia di Torino, nella provincia di Milano, e queste province vengano sostituite dalle città e dalle aree metropolitane. La provincia ha un ruolo fondamentale. Io abito in un comune di 1000 abitanti. Se non ci fosse la provincia che fa le strade, che porta i servizi, il sindaco del mio comune dovrebbe rivolgersi in regione, il che è come rivolgersi a Roma, cioè non verrebbe ascoltato. L'Italia è l'Italia di 8000 erotti comuni, il 90% dei quali ha meno di 5000 abitanti. La provincia è un ente intermedio assolutamente indispensabile. Bisogna dare più potere e più risorse alle province e, ed è ciò che ci accingiamo a fare, eliminare, questo sì, tutti gli enti intermedi tra comune e provincia, le comunità montane, i consorzi, i BIM, gli ATO, tutte strutture che si sovrappongono nella governance, che costano e che creano conflitti tra il comune e la provincia. La nostra posizione è questa, comune, provincia, regione, trasferendo in basso e in alto tutte le competenze degli enti intermedi che vanno aboliti.